Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Eccoci al nuovo appuntamento con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre e, come buona abitudine ormai iniziata da alcune settimane, nel primo appuntamento dialoghiamo con l'avvocato Gioia Barbato dell'ufficio legale di Adico. Ben trovata. Grazie, buongiorno Mirko, buongiorno a tutti. Allora, parliamo di bollette gas, bollette luce, energia elettrica. Ci sono delle novità, meno male positive, perché gli aumenti dovrebbero scattare con aprile, ma qui non parliamo di aumenti, parliamo di una novità che riguarda i casi di morosità, e purtroppo non sono pochi. Cosa succede? Esatto, ti faccio una piccola premessa, perché in realtà ultimamente in associazione abbiamo ricevuto moltissime segnalazioni di nostri soci a cui veniva staccato il servizio del gas o dell'energia elettrica senza alcun preavviso. Addirittura una delle ipotesi più frequenti era che l'utente riceveva la raccomandata con l'intimazione al pagamento, quindi la cosiddetta costituzione in mora, e la minaccia, tra virgolette, del distacco del servizio già dopo che il servizio era stato sospeso. Quindi sostanzialmente c'era una persona che riceveva l'avvertimento dopo che il danno, tra virgolette, era già stato fatto. Ecco, parliamo di distacchi ovviamente per caso di morosità, cioè di bollette non pagate. Sì, di bollette non pagate, o comunque di bollette che comunque erano in mora, quindi c'era un ritardo nel pagamento. E esatto. Cosa cambia adesso? Allora, sostanzialmente nel 2013 l'autorità garante per l'energia elettrica e il gas ha introdotto alcune garanzie a tutela del consumatore, quindi sostanzialmente ha individuato un nuovo modo di approcciarsi tra utente e distributore, inserendo delle maggiori garanzie. In particolare queste innovazioni investono diversi fronti, sia le modalità di erogazione del servizio, sia i termini, sia l'eventuale indennizzo che il distributore dovrà corrispondere al consumatore sanzionato, al consumatore danneggiato, pardon. Mi spiego meglio. Allora, innanzitutto sono state introdotte delle modalità che deve seguire il gestore quando deve avvertire il consumatore di un ritardo ed dell'imminente sospensione del servizio, che deve essere effettuata tramite lettera raccomandata e non più tramite mail o tramite telefonata, come invece è in uso in questi tempi. E innanzitutto, per quanto riguarda la tempistica, questo avvertimento deve avvenire almeno 20 giorni prima, quindi sostanzialmente l'utente ha ben 20 giorni di tempo o per sanare la morosità o eventualmente per individuare una soluzione transattiva con l'ente distributore, che ricordiamo per soluzione transattiva può essere o un piano di rientro con delle rate o addirittura una soluzione a saldo e stralcio. Quindi questo per quanto riguarda il fronte delle modalità e dei termini. Per quanto riguarda l'indennizzo, è diciamo una nuova prassi che ha adottato l'autorità garante per tutelare ancor più il consumatore. Mentre prima il distributore poteva intervenire a sospendere il servizio senza preavviso, cioè, quindi, come ti dicevo prima, il preavviso arrivava dopo che il servizio era già stato sospeso, ora nel caso in cui succeda accada una cosa del genere, l'ente distributore viene sanzionato con delle sanzioni vere e proprie da un punto di vista economico. Quindi adesso ti parlo di sanzioni così, cioè quelli che abbiamo, insomma, che si possono rinvenire in questa delibera. Parliamo di 30 euro giornalieri per tutti i giorni in cui il distributore non ha dato avvertimento della sospensione del servizio, cioè 30 euro al giorno per ogni giorno in cui il consumatore viene lasciato senza servizio, senza poter usufruire quindi di energia o gas. Ecco, e quindi ci sono delle multe abbastanza irrisorie, però ci sono, considerando che poi il danno di essere senza corrente magari vale molto di più. Dicevi dunque almeno 20 giorni per regolarizzare la posizione, un tempo che secondo me così potrebbe essere anche più ampio, perché nel momento in cui uno non paga c'è una scadenza, che ne so, il 15 del mese, quando è che tecnicamente scatta la mora? Il giorno dopo, ovviamente, cioè già dal primo giorno in cui non si paga. Allora, da lì comincia il ritardo, poi però è necessario che il creditore, quindi in questo caso l'ente distributore, costituisca in mora il debitore. Cosa significa? Significa che il distributore deve inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno dove dà un termine per sanare la mora. Diciamo, generalmente questo termine è di 7 giorni, è un termine indicativo, però generalmente noi tutti mettiamo 7 giorni. Scaduta la mora, il distributore avrà la possibilità di intervenire. E come può intervenire? Dovrà comunque intervenire, secondo questa nuova delibera, mandando un nuovo avviso, che dovrà essere comprovato, quindi un'altra raccomandata con ricevuta di ritorno, dove intimerà al consumatore che se non provvederà a sanare la mora entro 20 giorni, perché questo è il termine nuovo di 20 giorni, e provvederà alla sospensione del servizio. In passato invece perché questa prassi era arbitraria? Perché il consumatore innanzitutto non veniva reso edotto di questo rischio, o meglio, c'era diciamo un po' la prassi da parte del servizio cliente di contattare telefonicamente il consumatore. Il consumatore al che si trovava a ricevere tutta una serie di minacce, tra virgolette, telefoniche, e non riusciva neanche a comprendere quale fosse la gravità della sua posizione. Quindi ora è necessario che questo avvertimento venga fatto assolutamente per iscritto. Diciamo che questa è stata la svolta principale, cioè che l'avvertimento deve essere fatto per iscritto e vengono scanditi in maniera precisa quelli che sono i termini per adempiere. Quindi praticamente tra i 7 giorni di mora e i 20 giorni, insomma, può anche passare un mese. Esatto, e in questo mese noi abbiamo moltissimi casi dove in questo lasso di tempo c'è la possibilità per il consumatore di arrivare ad una transazione che, come dicevo prima, può essere o una rateizzazione, quindi redigere un vero e proprio piano di rientro dove il consumatore mensilmente dà una piccola quota, oppure si può anche addivenire ad una soluzione a saldo e a stralcio, che generalmente è la corresponsione del debito in una soluzione unica, però con una scontistica che di solito va dal 20 al 30%, e anche questo potrebbe essere, insomma, una soluzione percorribile nel caso in cui magari un consumatore ha della liquidità. Anche perché, appunto, un conto è un ritardo magari di un giorno, due, tre, una settimana, poi altra cosa sono i ritardi di pagamento più lunghi. Questa è una cosa che viene dall'autorità per l'energia elettrica e per il gas, quindi vale per tutti i gestori, esatto, che sono sul mercato. Vale per tutti i gestori, sì. E quindi qualsiasi fornitore abbiate a casa, e per il gas e per la corrente elettrica, sappiate che adesso c'è anche qualche giorno in più per pagare le bollette eventualmente in ritardo. Esatto, novità importante, insomma, ogni tanto una buona notizia per i consumatori, di cui ringraziamo l'Adico di Mestre, l'avvocato Gioia Barbato. Grazie, alla prossima. Grazie Mirko, buongiorno a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, associazione difesa consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.